Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Attacco ai talebani, nel vivo l'offensiva americana, vicino Kabul in battaglia anche i soldati italiani. La crisi, il peggio è passato, dice Berlusconi, le banche sotto accusa per il credito alle imprese si difendono, i commercianti si affidano ai saldi, spenderemo 6 miliardi di euro. Riaperta la stazione di Viareggio, i treni tornano a circolare mentre le vittime salgono a 21. Colf e badanti a rischio espulsione, ma la norma sulla clandestinità non è retrattiva, dice il Viminale che si difende. Nella legge sicurezza anche novità per le patenti. No ai tagli delle scuole piccole, dice la Consulta. Ora cosa cambierà? Ne parliamo con la presidente della regione Piemonte, dove c'era il maggior numero di istituti a rischio. Lo strega dei veleni, il premio letterario Tiziano Scarpa, ma tra le polemiche. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Ieri vi abbiamo raccontato dell'avvio dell'imponente attacco dei Marines americani nel sud dell'Afghanistan. Oggi le operazioni sono proseguite, sono stati coinvolti anche i militari italiani in un'altra zona del paese, nei pressi della capitale Kabul. Si prospettano dunque settimane di guerra con i talebani, ricomincia l'offensiva massiccia. Cominciamo da qui l'edizione di oggi di GR24 Extra Large con un'intervista. Cristina Balotelli ha sentito poco fa il capitano Matteo Mineo del comando del contingente italiano che si trova a Kabul. Sentiamo. Sì, è terminata nella notte a circa 35 km a sud di Kabul, nella valle di Musai, un'operazione congiunta tra i paracadutisti del 186esimo reggimento della Folgore e i militari dell'esercito afghano, volta a contrastare la pericolosa presenza di insorti nell'area a danno della popolazione locale. L'operazione ha visto impegnati circa 600 militari tra italiani e afghani e ha permesso la cattura di un gruppo di insorti del distretto di Musai e sequestro anche di armi portatili. Che cosa si intende? Armi portatili, si intende AK-47, pistole. Quelli che voi definite insorti, sono dei talebani, sono gruppi? Gli insorti sono una larga, sotto il nome di insorti, vanno sia i talebani che la criminalità legata al traffico dell'oppio, che il personale dell'HIG, che è un gruppo terroristico locale, che è il terrorista di Al-Qaeda. In questo caso, molto probabilmente, perché comunque le indagini sono ancora in corso, si tratta di talebani. Lei sa che stanno avvenendo proprio adesso degli scontri violenti tra personale americano e afghano, questa operazione nella provincia di Helmand. Questa presenza talebana, che inizialmente era soprattutto circoscritta a determinate province, si fa sempre più sentire adesso anche nei pressi di Kabul. Il punto è questo, che dall'inizio della primavera l'esercito italiano ha iniziato ad uscire prepotentemente fuori dalle basi, estendendo il proprio controllo in un modo capillare in tutta l'area di operazione. In questo modo è ovvio che anche i conflitti con gli elementi degli insorti sono aumentati, però questa è una cosa conseguente all'estensione del controllo del territorio da parte dei militari e da parte dei paracadutisti in particolare, rispetto a quanto ovviamente era stato fatto nel periodo invernale, quando per difficoltà di movimento e per questioni climatiche i movimenti erano molto minori. In questa missione noi siamo di supporto all'esercito e alla polizia afghana. Quindi ogni operazione che viene effettuata dall'esercito afghano, in questo caso da parte di un battaglione che è nella nostra area di operazione, viene seguito dalle truppe italiane. E così dunque il capitano Matteo Mineo dal comando italiano a Kabul. Veniamo in Italia. Tre scosse hanno agitato la notte degli abruzzesi, la più forte la notte scorsa alle 3:14, magnitudo 3.4. Un'altra scossa questa mattina ancora più forte, magnitudo 3.6, alle 11:43. Paura tra la popolazione, chi era nei pochi uffici agibili si è riversato per strada. Preoccupazioni ci sono anche per il prossimo vertice del G8 tra ormai 5 giorni. E intanto proprio in questi minuti al Ministero dell'Economia è l'Aquila Day, una giornata di studio proprio su ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate. Il premier Berlusconi ha promesso entro settembre più nessuno sarà in tenda, ma si è parlato anche di molto altro. Andiamo al Ministero dell'Economia da Chiara Di Michele. Sì, buongiorno. Era un presidente del Consiglio ottimista, quello che stamattina ha aperto i lavori del workshop sulla ricostruzione dell'Aquila. Berlusconi ha confermato, come dicevi da studio, che entro settembre nessuno dormirà più in tenda. Ci sono già 650 operai al lavoro e dal 15 settembre cominceranno ad essere pronte le nuove case costruite su piattaforme antisismiche che potranno ospitare 15.000 persone. Berlusconi promette inoltre la ricostruzione delle 500 chiese danneggiate. Al workshop è stato proiettato anche un video con immagini della devastazione in Abruzzo che Berlusconi conta di portare al G8 perché dice sono immagini molto efficaci. Al G8 dell'Aquila il Premier porterà anche un nuovo codice di regole per il futuro che è quello elaborato dal Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, ma avverte per quanto riguarda il risultato e quindi l'attuazione di queste regole siamo ancora molto lontani. Il Presidente del Consiglio poi si è mostrato ottimista sul superamento della crisi economica da cui si può uscire, secondo Berlusconi, solo combattendo contro la paura che determina una riduzione dei consumi. Per questo il Premier torna sul legame tra crisi e informazione, precisando di non aver detto agli imprenditori di ridurre la pubblicità su certa stampa, ma di convincere gli editori ad essere fattori di fiducia e non di paura. Sentiamo adesso le parole del Presidente del Consiglio sulla crisi. Ciò che di peggio doveva accadere è già, a mio parere, accaduto. Ciò che doveva accadere nel mondo delle banche e ciò che doveva accadere per quanto riguarda la svalutazione degli assets nei mercati è accaduto. Chi doveva fallire è fallito, chi si doveva togliere dal mercato si è tolto. Oggi quindi a me non pare assolutamente che ci siano altre situazioni che dobbiamo temere. Da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie a Chiara Di Michele. Intanto sul fronte della crisi sotto i riflettori ci sono ancora le banche, sia sulla scena internazionale che su quella italiana. Negli Stati Uniti nuova ondata di fallimenti bancari, 6 banche dell'Illinois e una del Texas sono state poste sotto sequestro, portando il totale dei crack bancari di quest'anno a 52. Il pacchetto di misure d'emergenza voluto dall'amministrazione Obama sembra aver tamponato l'emorragia delle grandi banche, ma sono spesso gli istituti regionali ad accusare ora il colpo della recessione. E in Italia a incalzare le banche è stato questa mattina Roberto Castelli, sottosegretario per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le banche stanno vanificando gli sforzi del governo per aiutare le piccole e medie aziende. Si legge in un comunicato in cui Castelli aggiunge: ricevo continue segnalazioni di pesantissime strette al credito per artigiani e piccoli imprenditori. E proprio di credito e crisi si è parlato questa mattina a Milano, dove gli istituti bancari si difendono. Come e perché? Alessio Maurizi. Sì, buongiorno. Circa 2/3 delle imprese italiane stanno sentendo in questo momento la crisi e il 15% del totale lamenta difficoltà con l'accesso al credito. Una cifra importante presentata questa mattina a Milano, anche se secondo Banca Intesa San Paolo in alcuni casi amplificata in modo inopportuno, forse anche eccessivo, dai mezzi di informazione. Queste le cifre contenute in uno studio appunto di Banca Intesa San Paolo presentato oggi a Milano, che fanno da sfondo alle nuove iniziative sul credito volute dall'istituto di credito, messe a punto insieme a Confindustria e presentate questa mattina nell'interesse soprattutto delle piccole, piccolissime e medie imprese, come ha confermato Giuseppe Morandini, vicepresidente di Confindustria e responsabile per la piccola industria. Sentiamolo. Questa banca ha deciso di mettere a disposizione della piccola impresa 3 strumenti che entrano nella gestione quotidiana e che migliorano la gestione degli insoluti, la patrimonializzazione e la possibilità di spostare i mutui di almeno un anno. C'è la necessità poi che intervengano anche misure fiscali che consentano la patrimonializzazione delle piccole imprese. Ci aspettiamo la detassazione degli utili che rimangono in azienda, ma soprattutto ci aspettiamo una bella moratoria su Basilea 2, perché i parametri di Basilea vuol dire non dare credito nel 2010 alle nostre imprese. Questa dunque è la posizione delle piccole e medie imprese con le richieste anche al governo, ma veniamo a quelle che sono le misure presentate oggi. Secondo Intesa San Paolo ci sono 61 miliardi di affidamenti ancora non utilizzati dalle imprese che sono a disposizione delle aziende, 18 per quelle piccolissime, 13 per quelle medie, 30 miliardi per le imprese piccole. L'istituto metterà a disposizione altri 30 miliardi di euro aggiuntivi di credito che saranno offerti a richiesta delle piccole imprese nei prossimi 3 anni per investimenti di medio e lungo termine. Ma sentiamo Corrado Passera, l'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Noi stiamo impegnandoci per fornire credito a tutte le categorie di aziende, le molte che stanno comunque avvantaggiandosi in questo periodo e stanno continuando a rafforzarsi e quelle che sentono maggiormente la crisi, con dei prodotti, con degli interventi concordati anche con Confindustria che andranno proprio nella direzione di aiutare quelle aziende più colpite. Questa è una cosa. Il nostro impegno porta a affidamenti, linee di credito al Paese per 500 miliardi, che è quasi un terzo del PIL, quindi il nostro impegno non solo è confermato, ma aumenta. E grazie anche ad Alessio Maurizi. Da pochissimi istanti a Palazzo Chigi è cominciato il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno c'è anche la decisione dello Stato di decretare lo stato di emergenza a Viareggio dopo l'incidente alla stazione. Allora a Viareggio andiamo perché la stazione ferroviaria ha riaperto, ma ci sono ancora molti feriti gravi e soprattutto molti interrogativi. Ubaldo Cianciulli. Sì, buongiorno. Prosegue la conta delle vittime. Ora sono 21 i morti dell'incidente di lunedì sera. Nelle ultime 12 ore altri due feriti ricoverati in gravi condizioni dell'ospedale di Carrara non ce l'hanno fatta. Si tratta di un uomo di 34 anni di origini marocchine e di una donna non identificata. Sono 17 i feriti ricoverati in diversi ospedali, almeno 5 sarebbero in pericolo di vita. Ancora non si hanno però notizie di Andrea Falorni di 50 anni e Antonio Farnocchia di 51, entrambi di Viareggio e tuttora dispersi. In giornata dovrebbero concludere l'operazione di identificazione delle salme. Intanto stamani è stata riaperta la stazione ferroviaria di Viareggio, è in funzione però soltanto uno degli 8 binari a disposizione. Il primo treno è arrivato poco prima delle 6, molta angoscia e preoccupazione per i passeggeri nel vedere i carri cisterna bruciati presenti ancora sui binari. Per alcuni giorni sono comunque previsti ritardi, disagi e soppressione di treni. Nella zona rossa di Viareggio, che era stata evacuata per precauzione durante il trasferimento dell'ingente carico di GPL, gli abitanti sono tornati a casa quasi tutti, ne rimangono fuori circa un'ottantina che oggi sono andati nelle abitazioni a prendere alcuni effetti personali. Intanto, come dicevi te in apertura, il Consiglio dei Ministri si è appena riunito per dichiarare lo stato di emergenza per la città di Viareggio e l'inchiesta della magistratura prosegue per accertare le responsabilità di questa immane tragedia. Grazie Ubaldo Cianciulli. Voltiamo pagina con un solo voto di scarto dopo una sfida davvero al cardiopalma durata oltre mezzanotte. Tiziano Scarpa ha vinto ieri sera l'edizione 63 del premio Strega con il romanzo Stabat Mater edito da Einaudi. Un'edizione del veleno con molte polemiche. Allora Adriana Fracchia ha intervistato proprio Tiziano Scarpa. Io sono contento del fatto che questa storia, che ha emozionato me, perché è una storia di una quindicenne angosciata, insicura, che è insomma una parte di me, ho visto che ha toccato i ragazzi, ha toccato gli adulti, e poi è una storia anche di una Venezia, un'Italia più scura, più triste, più insonne di quella che conosciamo, no? È nel cuore del Settecento, considerato frivolo, è un lato anche di noi italiani diverso, quindi questo mi fa un enorme, immenso piacere che anche propugna un'immagine di noi italiani un po' meno cialtroni, ecco. Che cosa l'affascina di Vivaldi in particolare? È proprio questo lato malinconico, attento all'ascolto dell'animo femminile dell'umanità intera, insomma, perché lui insegnava a queste ragazze, componeva per loro all'orfanotrofio della Pietà, e io mi sono chiesto, non le avrà solo usate come orchestra, no? Come degli strumenti musicali, avrà anche dato ascolto al loro stato d'animo, al fatto che queste ragazze orfane o trovatelle non erano padrone di se stesse, non conoscevano le loro origini e quindi erano di ansie e di insicurezze. Un punto solo ha fatto la differenza rispetto al suo secondo collega classificato, Scurati. Questo vuol dire che il suo libro era veramente bello e meritava quanto il mio di vincere, quindi io non l'ho letto, è un bel libro davvero, e quindi vuol dire alla fine che è stato veramente casuale, cioè se non poteva vincere benissimo lui come ha vinto il mio libro. E quanto alle polemiche che ci sono state? Ma le polemiche ci sono sempre ogni anno e sono anche motivate, perché persone che sono addentro ai meccanismi anche tecnici di questo premio hanno spiegato quali sono i punti deboli. Non sta a me dare le soluzioni, è ovvio, ma io sono felice del fatto che anche certi voti collettivi come quelli delle 16 scuole dei licei romani o delle 9 circoli della Dante Alighieri, che esprimevano un voto singolo pur essendo decisi da 150 persone, ciascuno di questi due voti collettivi per esempio hanno scelto il mio libro. Questi non erano certo voti manipolabili, diciamo, no? E così l'intervista a Tiziano Scarpa, vincitore ieri sera del premio Stregal. 13:19 minuti 30 secondi in questo istante. Nella prima parte di Extra Large abbiamo parlato dell'attacco ai talebani, entrata nel vivo ormai l'offensiva americana, e vicino a Kabul in battaglia ci sono stati anche i soldati italiani con la polizia afghana contro un gruppo di insorti. La crisi, il peggio è passato, dice Berlusconi, ma le banche sono ancora nel mirino, poco credito alle piccole imprese, le banche si difendono, i soldi arrivano, dicono. Riaperta la stazione di Viareggio, i treni tornano a circolare mentre le vittime salgono a 21. In corso c'è il Consiglio dei Ministri per dichiarare lo stato di emergenza a Viareggio. E ripartiamo dalla legge sicurezza dopo l'approvazione di ieri. La solita liturgia, il ministro dell'interno Roberto Maroni risponde così alle critiche espresse dal Vaticano dopo il via libera al provvedimento che tra le altre cose istituisce il reato di clandestinità e consente le ronde. Nessun governo, dice Maroni, hai fatto così tanto in poco tempo. Il DDL sicurezza contiene norme che rendono più efficace il contrasto alla criminalità. Chi lo critica queste norme non le ha lette. Il testo, vi dico peraltro, già lo trovate oggi allegato a Il Sole 24 Ore, ma intanto torniamo anche noi a guardare tra le pieghe della legge approvata ieri, perché ci sono molte norme, molte ricadute sulla vita pratica al di là della questione della clandestinità che da oggi è reato, questioni che riguardano anche i cittadini italiani. Allora, di tre punti vogliamo cercare di capire di più. Cosa cambia per chi ha una colf, una badante? Cosa accade per chi ha una patente di guida? Poi ci sono le norme antimafia e antiracket. Di queste parleremo tra poco con un ospite. Prima sentiamo cosa succede per colf e badanti. I sindacati ne stimano a rischio di espulsione circa 500.000. Sono le badanti straniere irregolari impiegate in altrettante famiglie italiane, molte ospitate nelle case degli anziani da accudire. La legge non è retroattiva, ha precisato il ministro Maroni. Colf e badanti che sono già nel nostro paese non corrono alcun rischio, ha aggiunto. I nodi da sciogliere però sono molti. La nuova legge non interviene direttamente sulle questioni di lavoro, ma l'istituzione del reato di clandestinità complica la situazione per molti immigrati. Con i flussi bloccati, ad eccezione dei lavoratori stagionali, le decine di migliaia di nulla osta pendenti e il giro di vite sul rilascio di permessi e rinnovi, test di italiano tassa fino a 200 euro, la forza lavoro straniera rischia di ridursi drasticamente. Nessuno può entrare e chi perde il posto, secondo la CISL, per effetto della crisi entro il 2010 circa 150.000 immigrati, deve trovarne uno entro 6 mesi, altrimenti diventa fuori legge. E tra i settori maggiormente a rischio, oltre all'edilizia, c'è proprio quello dell'assistenza domiciliare. Ci preoccupano anche i rinnovi, dice Pino Gulia, responsabile immigrazione per il patronato ACLI. La persona che entra regolarmente per la prima volta nel nostro paese riesce ad ottenere permesso di soggiorno dai 6 ai 12 mesi di attesa. Il rinnovo del permesso di soggiorno segue lo stesso iter. La persona straniera lavoratore regolarmente presente è in una sorta di limbo in cui la propria identità è in qualche maniera aleatoria, e di questo purtroppo questo pacchetto sicurezza non ha tenuto nessun conto, non ha trovato le modalità per accelerare il rilascio di questi documenti, ha creato ancora di più uno status di insicurezza nelle persone straniere regolarmente presenti sul territorio. Maria Luisa Pezzali, GR 24, Il Sole 24 Ore. Notizie dell'ultima ora, intanto meno circa una decina di minuti fa, mentre anche noi eravamo in onda e mentre anche noi stavamo parlando proprio della situazione all'Aquila, c'è stata un'altra, l'ennesima in questa giornata, un'altra forte scossa di terremoto all'Aquila attorno alle 13:12. La gente è uscita dagli uffici riversandosi delle strade, molta paura, scossa abbastanza forte, 4.1 di magnitudo. Non dovrebbero esserci stati danni, ma è la sesta scossa nelle ultime ore all'Aquila. Torniamo a parlare allora del decreto sicurezza. Tra le pieghe della legge c'è anche il divieto per chi non ha denunciato il racket di partecipare a bandi pubblici, insomma una sorta di messa al bando, di condanna sociale per chi non denuncia, una battaglia questa intrapresa dall'ex presidente di Confindustria Sicilia Ivan Lobello, è stato diverse volte nostro ospite, lo salutiamo anche oggi, buongiorno. Buongiorno a voi. In qualche modo un successo questa norma? Sì, va dato atto al ministro Maroni, al sottosegretario Mantovano, al ministro Alfano di aver spinto su una norma estremamente importante che però rientra in una strategia avviata già con la precedente normativa e che si completa con questa legge. Subito su una questione, insomma, l'obbligo di denuncia non è contro gli imprenditori, serve a supportare gli imprenditori che vogliono venire nel Mezzogiorno e fare la propria impresa senza alcun condizionamento, quindi non va vista come una misura punitiva ma come una misura che in qualche modo libera risorse e può rappresentare uno strumento importantissimo nella lotta alla mafia. A questo si aggiungono norme molto importanti, intanto l'allungamento del 41 bis, il 41 bis ha dimostrato di essere uno strumento efficacissimo nel contrasto alla mafia, i tempi si allungano di 4 anni e si stabilisce un foro unico per i ricorsi al Tribunale di Sorveglianza a Roma, senza, diciamo così, quello shopping che c'era stato finora nel resto d'Italia. Più potere ai prefetti anche per prevenire le infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, questo è estremamente importante perché è il modo per verificare l'inquinamento e la regolazione tipica che la mafia fa rispetto a certi mercati. E poi l'accelerazione del sequestro, i beni confiscati, le responsabilità nei consigli comunali che vengono introdotti per i dirigenti e i dipendenti comunali. Finora si scioglieva un consiglio comunale per mafia, pagavano il sindaco e gli assessori, mentre molto spesso le infiltrazioni mafiose avvengono non solo sul livello politico ma anche sul livello burocratico. Io credo, insomma, che questa normativa sia importante, rafforza la lotta alla mafia, tocca i temi reali con cui si può contrastare la mafia. E Lobello, quindi le dispiace, forse c'è un po' di dispiacere per il fatto che norme appunto su cui voi avete puntato così tanto siano state inserite in un provvedimento tanto contestato per altri motivi? Non voglio entrare in valutazioni politiche sul provvedimento nella sua totalità, mi limito ovviamente, insomma, a valutare le norme antimafia che sono norme importanti, che unite alle altre che hanno modificato le misure di prevenzione e quindi resi più agevoli i sequestri e le confische mafiose, oggi disegnano un quadro legislativo che consente a magistrati e a forze dell'ordine di aumentare la loro efficacia nell'azione contro la mafia. Grazie a Ivan Lobello per essere stato con noi in diretta. Grazie e buona giornata. Altro tema ancora all'interno del provvedimento sulla sicurezza approvato ieri, altra ricaduta, cambiano, qualche novità ci sono per la patente di guida, attenzione anche se andate in bicicletta, sentite. Una Ferrari o una Graziella pari sono, leggiamo insieme. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. Da un lato così si introduce nel codice della strada una norma, la 219 bis, che introduce il patentino a punti anche per i motocicli, ma dall'altro si estende la punibilità se si è in possesso di una qualsiasi patente di guida. Se sto guidando una bici, un triciclo, un carro agricolo trainato da buoi e commetto un'infrazione di una certa gravità, dovrei essere sanzionato con la sospensione, il ritiro o la revoca della patente. Ma se invece la patente non ce l'ho, la sanzione non si applica. Si crea così una certa disparità e poi Poi, la norma parla solo di sanzione accessoria, ma non si cita mai la sanzione principale, cioè quella pecuniaria. Quindi, un ciclista che non abbia la patente e che commetta una grave infrazione resta sostanzialmente impunito? Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Dalle strade al mare, anche quest'anno, come l'estate scorsa con Extra Large, vi portiamo alla scoperta della salute dei mari italiani, dove magari molti andranno presto o sono già in vacanza. Seguiamo Goletta Verde, che monitora lo stato delle acque dei nostri mari. Andiamo a Ravenna con Giorgio Zampetti di Goletta Verde. Buongiorno. Buongiorno a voi. Mare di Romagna, come sta allora? Beh, la terza tappa che si è conclusa proprio oggi qui a Ravenna in Emilia-Romagna ha dato i risultati di quello che è il monitoraggio della Goletta Verde, che va ad analizzare i punti critici. Quest'anno è stato evidenziato, così come anche gli altri anni, che le foci dei fiumi, ovvero i corsi d'acqua che dall'entroterra arrivano fino alle coste, sono i punti più critici e più inquinati di tutta quanta la costa dell'Emilia-Romagna. Un dato che deve far riflettere, perché diciamo anche se le foci stesse non sono balneabili, però poi l'inquinamento che arriva dalle foci può andare poi a coinvolgere anche la costa circostante. Quindi soprattutto questo, per il resto la situazione è abbastanza tranquilla, insomma, più in linea con gli altri anni. Questo sulla qualità delle acque, anche perché diciamo quest'anno poi la Goletta Verde si è dedicata esclusivamente a individuare quelli che sono i punti critici. Sappiamo che il mare italiano gode di buona salute, ed è un mare di qualità in linea generale, però quest'anno come Goletta Verde abbiamo deciso di andare proprio a individuare quelli che sono ancora i punti non risolti del mare italiano. E sicuramente qui in Emilia Romagna i canali, i porti e le foci che arrivano al mare sono una di queste forti criticità. Però poi è stata anche l'occasione per denunciare, per testimoniare come in Emilia Romagna, ma come in altre regioni, però qui forse soprattutto, ci siano sempre più progetti di costruzione e di cementificazione delle coste. Una tendenza questa che invece va proprio contro quello che invece si ricerca oggi col turismo, che è invece la qualità ambientale e la naturalezza anche dei territori. E la natura. Grazie a Goletta Verde, ci risentiamo domani, sarete ad Ancona. 13:35 minuti, GR24 Extra Large torna con le notizie di oggi. Attacco ai talebani nel vivo l'offensiva americana, vicino a Kabul in battaglia anche i soldati italiani. La crisi, il peggio è passato, dice Berlusconi, le banche sotto accusa per il credito alle imprese si difendono, i commercianti si affidano ai saldi, spenderemo 6 miliardi di euro. Riaperta la stazione di Viareggio, i treni tornano a circolare, le vittime salgono a 21, decretata lo stato di emergenza. All'Aquila, forte scossa di terremoto 4.1 di magnitudo, è l'ennesima di una lunga giornata. No ai tagli delle scuole piccole, dice la Consulta. Ora cosa cambierà? Ne parliamo con la presidente della regione Piemonte, dove c'era il maggior numero di istituti a rischio. E allora ripartiamo proprio da qui, innanzitutto dalla notizia dell'ultima ora, l'avevamo annunciato, era riunito il Consiglio dei Ministri, ebbene un istante fa ha dato via libera al decreto in cui si dichiara lo stato di emergenza a seguito del disastro ferroviario di Viareggio, decisi anche lutto nazionale e funerali di Stato. Il altro tema annunciato, l'avete sentito nei nostri titoli, il ridimensionamento della rete scolastica non è competenza dello Stato ma delle regioni, così ha stabilito la Consulta su ricorso di ben 8 regioni. In pratica non deve essere il Ministero della Pubblica Istruzione, dice la Corte, a dover decidere quali scuole chiudere e quali no. La polemica e le proteste hanno riguardato per mesi in particolare le scuole dei piccoli comuni, delle isole, delle montagne, dove ci sono normalmente pochi bimbi e tante spese. Capofila della protesta è stata la regione Piemonte, che di montagne ne sa qualcosa. Il presidente della regione Piemonte, Mercedes Bresso, in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno. Allora, cosa cambia? Che succede? Non chiuderanno alcune scuole? Cambia qualcosa nella pratica la pronuncia della Corte? Ovviamente intanto viene affermato un principio di diritto che nelle materie concorrenti gli elementi di organizzazione e di regolamentazione sono competenza esclusiva delle regioni e che quindi nel caso specifico il governo non può emanare atti regolamentari in merito al dimensionamento scolastico, ma deve limitarsi appunto alle norme generali sull'istruzione. Che cosa vuol dire in pratica? Che tenuto conto che noi sui principi generali del dimensionamento scolastico eravamo assolutamente in regola, perché avevamo costruito le scuole dell'autonomia con le opportune dimensioni come previsto dalla legge, ma che poi il dimensionamento specifico dei plessi scolastici, cioè delle scuole, che non sono scuole dell'autonomia, le scuole di montagna con 50 o meno allievi, sono delle scuole che dipendono come direzione scolastica da un plesso che raggiunge almeno i 300.000 come previsto quando ci siano situazioni come la montagna, o 500.000 o di più quando siano in altre parti del territorio. Oggi ci viene riconosciuto il fatto che noi abbiamo il diritto di decidere che, ad esempio, in una valle dove accorpare gli studenti di una scuola montana, che sono in genere, lo dico perché il lettore, gli ascoltatori lo capiscono, sono già scuole dove c'è ad esempio le pluriclassi, cioè dove ci sono gli studenti tutti insieme. E zone normalmente in cui è difficile anche spostarsi, insomma. In cui è difficile spostarsi, cioè noi abbiamo valutato in queste situazioni che convenga tenere una scuola con magari 40, 42, 45 allievi, piuttosto che prenderli tutti, metterli su un pullman con costi enormi, portarli a Valle, dove dovremmo peraltro ingrandire la scuola per consentire di accoglierli. Quindi avremo costi di investimento e costi normali di gestione superiori al fatto di tenere la scuola in montagna come oggi. E questo sono un numero di casi purtroppo molto rilevante, perché noi abbiamo non più tante comunità montane, le comunità montane sono ridotte a poco più di una dozzina, ma abbiamo tantissime valli, cioè strutture fisiche. Già da settembre, dalla ripresa dell'anno scolastico, questi ragazzini, questi bambini continueranno ad andare nelle vecchie scuole, non cambierà nulla? Questo certamente non cambierà, certo, non, per il momento noi non le avevamo abolite, quindi sarebbero comunque andati. Il problema è che non verranno neanche abolite in futuro. Non verranno neanche abolite in futuro, e che si apre un confronto con la direzione scolastica e con il Ministero per avere garantiti gli insegnanti che consentono di farlo. Ribadisco, non sono costi aggiuntivi, perché trasportarli tutti i giorni avanti e indietro con un pullman, andandoli a prendere ognuno a casa, sarebbe costato di più, non di meno, e fare gli investimenti aggiuntivi per portarli giù, anche perché comunque gli insegnanti in più li avremmo dovuti mettere a valle. Quindi è un tema di organizzazione, non è un tema di costi. E quindi ci sarà l'estate ovviamente per organizzarsi, perché dal Ministero arrivino gli insegnanti. Certo. Grazie allora alla Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso, grazie e buona giornata. Siamo alla pagina della cronaca, con le notizie di oggi. Anarchici arrestati, volevano boicottare la ferrovia, sentite cosa è successo. Si erano ispirati ad un manuale anarco-insurrezionalista clandestino intitolato Ad ognuno il suo, mille modi per sabotare questo mondo. Sfogliando quelle pagine, seguendo le istruzioni passo dopo passo, due persone avrebbero tentato il sabotaggio della linea ferroviaria Orte-Ancona tramite l'uso di artigianali ganci in ferro da collegare ai fili elettrici per interrompere l'alimentazione al passaggio dei treni. La coppia di anarchici è stata arrestata dai carabinieri dei ROS. Su di loro pendono le accuse di organizzazione e partecipazione ad associazione sovversiva di ispirazione anarco-insurrezionalista, dedita al compimento di azioni criminose, concorso in attentato alla sicurezza dei trasporti aggravati dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. La Procura della Repubblica di Perugia ha anche disposto una serie di perquisizioni in Lazio, Piemonte, Lombardia, Toscana e Abruzzo nei confronti di altri 37 indagati per il reato associativo e di 7 persone che avrebbero collaborato al progetto eversivo. Daniele Morini, GR24, Il Sole 24 Ore, Perugia. Ucciso un boss in un agguato a Catania, Raimondo Maugeri, ritenuto il reggente dell'organizzazione che fa capo al boss Santa Paola, era a bordo di un ciclomotore nel quartiere Sant'Agata, nella città siciliana. Due uomini su una moto lo hanno affiancato sparando. Per il procuratore di Catania è un delitto d'alto livello. Voltiamo pagina, andiamo all'estero, ancora con le proteste in Iran e le reazioni del regime. Mentre la protesta riformista va avanti con uno sciopero di 3 giorni annunciato a partire dal 6 luglio, il regime di Teheran è sempre deciso a non concedere alcuna concessione. Anzi, secondo un deputato moderato citato dai media arabi, la TV di Stato starebbe per mandare in onda le confessioni estorte sotto tortura di alcuni oppositori arrestati negli ultimi giorni. In particolare l'Ayatollah Muhammad Abtahi, che è stato il vice dell'ex presidente Khatami, apparirebbe in video per ammettere in lacrime le sue colpe di aver partecipato ad un complotto ardito all'estero e di meritarsi la confisca del suo abito di teologo come misura punitiva. Intanto oggi, ad alimentare le voci di dissenso ai vertici del regime, fa rumore l'ennesima assenza dell'ex presidente Rafsanjani alla solenne preghiera del venerdì. Adil Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. All'estero restiamo per guardare i giornali stranieri e salutiamo Giulia Crivelli. Buongiorno. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora, una non sarebbe mai avvenuto in Italia, diciamocelo. Cosa ci racconti? Regole applicate al nostro Parlamento lo renderebbero deserto, credo, nel giro di un paio di sedute, perché in Portogallo è successa questa cosa che ovviamente è su tutte le prime pagine dei giornali portoghesi di oggi, a cominciare da Pubblico, che è il più importante. Un deputato ha fatto le corna, proprio si è messo tutte e due le dita, non con una mano sola, ma con due dita, si è messo le due dita accanto alla testa e ha fatto le corna all'indirizzo di un deputato dell'opposizione, cioè di un deputato di un partito opposto al suo, e ha dovuto dimettersi perché la cosa ha destato uno scandalo tremendo. Quindi il titolo di Pubblico è "Ovviamente demitido", ovviamente si è dimesso. Anche El País ne parla, ovviamente. Anche El País ne parla, e anche qui non come una stranezza, ma come una notizia giusta da dare, con il giusto rilievo, ma non come una stranezza. Cioè, se uno si permette di fare le corna in Parlamento, è abbastanza ovvio che si debba dimettere. Quindi perdere il posto, così titola El País, le corna che costarono il posto al deputato Manuel Pigno. È così, in Portogallo è così. Un'altra notizia che invece ci consola un po' arriva invece dagli Stati Uniti. Sì, un po' nascosta dal vostro giornale, perché di questi tempi credo che parlare di super stipendi dei banchieri faccia un po' arrabbiare tutti, però a pagina 19 il Wall Street Journal dà questa notizia. Il titolo è "I grandi stipendi tornano a Wall Street". Secondo un rapido sondaggio che hanno fatto gli analisti del Wall Street Journal, Goldman Sachs e Morgan Stanley nel 2009 si apprestano a pagare degli stipendi, naturalmente con quel meccanismo dei bonus che è legato naturalmente alle performance dei singoli banchieri, circa 700 mila dollari per ognuno dei loro dipendenti. È praticamente il doppio del 2008 ed è addirittura di più del 2007, quindi nel sommario il Wall Street Journal titola: insomma, è tutto come nel 2007, un po' quello che si teme. Adesso naturalmente vedremo, questo è un caso isolato, però che appunto questa crisi non sia un modo per cambiare veramente le regole, ma soltanto così una cosa da far passare per poi tornare alla situazione. Non è successo che nulla. Prima. Non è successo nulla. Va bene, parleremo anche nei prossimi giorni, ne avremo diverse occasioni, visto che comincia tra poco il G8. Grazie a Giulia Crivelli. 13:48 minuti, torniamo in studio e andiamo all'Aquila, proprio mentre eravamo in onda con questa edizione di GR Extra Large. Poco dopo le 13:10 c'è stata l'ennesima forte scossa all'Aquila delle ultime ore: 3 la notte scorsa, una alle 11:43 minuti, un'altra dopo le 13, 4.1, quindi è una magnitudine abbastanza forte. Cosa sta succedendo nelle ultime ore? Così dicono le agenzie, molti quelli che si sono riversati in strada, la gente che stava lavorando negli uffici già dichiarati agibili. C'è preoccupazione anche per il prossimo G8, sono scattati gli allarmi, la scossa ha fatto vibrare la struttura anche in cemento armato della scuola della Guardia di Finanza, dove sarà ospitato il G8. Enzo Boschi, direttore dell'Istituto di Geofisica, in diretta con noi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, l'abbiamo raggiunto proprio per cercare di farci spiegare cosa sta succedendo. C'è da preoccuparsi, c'è un'intensificazione delle scosse o è tutto normale? Innanzitutto chiariamo che una scossa di magnitudo 4.1 è forte, nel senso che la gente la sente, ma non crea problemi, cioè non fa crollare edifici, specialmente quelli dell'Aquila, che oramai sono quelli che hanno resistito, sono stati anche verificati molte volte, quindi è normale che sono stabili, ma non creano problemi. Chiaramente la gente si impaurisce e questo è forse il problema fondamentale. In questi ultimi tempi abbiamo osservato un aumento della sismicità verso nord, verso nord-ovest, verso Rieti, tanto per intendersi, ma all'Aquila in senso stretto continuiamo ad osservare una normale sequenza sismica che sempre si apre dopo una forte scossa come quella del 6 aprile. Quindi è tutto nella norma, ovviamente nulla è prevedibile, ci sarà tra pochi giorni i grandi della terra lì, e l'abbiamo detto molte volte, non è prevedibile nulla, però diciamo scientificamente è tutto ancora nella norma, al di là della grande attenzione in questi giorni. Sì, per quanto riguarda l'Aquilano, la zona dove si riuniranno i grandi, sì, è tutto nella norma. Poi naturalmente l'Italia è tutta sismica, quindi si possono avere terremoti ovunque, a partire dalla Liguria fino alla Sicilia orientale. Grazie allora ad Enzo Boschi. Grazie. Grazie a lei. Per essere stato con noi, l'abbiamo, come abbiamo detto, chiamato in diretta perché si stanno succedendo queste notizie di nuove scosse dall'Aquila, ma come ci ha detto, ancora tutto assolutamente, tecnicamente, scientificamente nella norma. Del G8 abbiamo già parlato in apertura perché ne ha parlato anche il Premier Berlusconi, tra l'altro è tornato oggi proprio nel giorno dell'Aquila Day sui contenuti, sui temi di cui si discuterà ormai fra cinque giorni, allora anche noi proseguiamo tra i nostri approfondimenti sui temi che verranno affrontati dai grandi della terra, tra questi c'è l'Africa. Luca De Fraia, vice segretario dell'ONG ActionAid Italia, fa il punto con noi sulle molte promesse fatte all'Africa, lo ha intervistato Sergio Nava. Per questa precisa necessità di rispettare gli impegni, che è fondamentale che questo G8 si incammini verso la direzione giusta, che è quella quantomeno di riconfermare gli impegni. Poi esistono paesi che si comportano bene e paesi che si comportano meno bene, persino l'America di Bush, uso apposta questa espressione, si è comportata bene, in particolare sul tema HIV, la Gran Bretagna un campione dell'aiuto, poi ci sono paesi fanalino di coda. Il G8 dell'Aquila serve a rimettere tutti in pista. E l'Italia è tra i paesi fanalino di coda? Devo dire di sì, purtroppo. Nel senso che se abbiamo avuto un virtuoso 2007 con ad esempio il pagamento di tutte le quote dovute al Fondo Globale per la lotta all'HIV, tubercolosi e malaria per 410 milioni di euro in un solo anno, dopo questo picco abbiamo dovuto vedere una decrescita di interessi, una decrescita di investimenti, e oggi siamo a una percentuale molto bassa della ricchezza destinata all'APS, all'aiuto pubblico sviluppo, lo 0,20-22%. Siamo in fondo alla classifica e veniamo dietro paesi più piccoli di noi come la Spagna. Lei cosa si aspetta da questo Giotto? Giotto ha assunto una posizione rilevante sulla questione dello sviluppo, quindi è quasi inevitabile che la sua agenda sia molto corposa, si va dall'acqua all'educazione, alla salute, al cibo. Gli elementi che stiamo raccogliendo in questi giorni è che ci sia una forte iniziativa, una forte spinta, chiamiamola così, da parte degli Stati Uniti sul tema cibo. Nel vertice ci dovrebbe essere una dichiarazione specifica, speciale sulla questione sicurezza alimentare, forse questo vertice quindi segnerà un passaggio importante sulla questione alimentazione. Esistono sugli obiettivi. E così dunque tra gli obiettivi del prossimo G8 all'Africa, proseguiremo anche la prossima settimana la nostra tappa di avvicinamento al G8. Nel frattempo torniamo a Palazzo Chigi, ve l'abbiamo raccontato in diretta, notizia dell'ultima ora, allora è stato decretato lo stato di emergenza a Viareggio. Vincenzo Miglietta. Sì, di nuovo buongiorno, breve riunione dell'esecutivo, al centro dei lavori, come dicevamo, soprattutto il tragico incidente ferroviario di Viareggio. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto in cui si dichiara lo stato di emergenza a seguito dell'evento di lunedì sera. Nel corso della riunione del governo è stato anche deciso che si terranno i funerali di Stato. Gli aspetti economici del decreto però con il quale Palazzo Chigi ha stabilito lo stato di emergenza saranno definiti in successivi provvedimenti governativi. Siamo in attesa che scenda qualche rappresentante dell'esecutivo che ci possa illustrare meglio le decisioni prese oggi qui a Palazzo Chigi. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Queste dunque le ultime notizie. Funerali di Stato saranno a Viareggio, ancora da capire quando. Siamo in conclusione di questa puntata di Extra Large, il riepilogo delle principali notizie. Attacco ai talebani, nel vivo oggi l'offensiva americana, ma vicino a Kabul in battaglia sono scesi anche i soldati italiani contro un gruppo di insorti. La crisi, il peggio è passato, dice Berlusconi, le banche sotto accusa per il credito alle imprese si difendono, intanto i commercianti si affidano ai saldi, spenderemo 6 miliardi di euro. Riaperta la stazione di Viareggio, i treni tornano a circolare, le vittime salgono a 21, ci saranno funerali di Stato e lutto nazionale. Colf e badanti a rischio, ma le norme sulla clandestinità non è reattiva, dice il Viminale. Le polemiche, dice il ministro Maroni, sono solo la solita liturgia. No ai tagli delle piccole scuole, dice la Consulta. Cosa cambierà? Resteranno aperte quelle delle isole della montagna, ci ha detto in diretta la presidente della regione Piemonte, Bresso. All'Aquila, un'altra forte scossa di terremoto, gente in strada e tanta paura, ma nessun pericolo, dice l'Istituto Nazionale di Geofisica. La strega dei veleni, il premio letterario a Tiziano Scarpa, ma tra le polemiche. Queste le notizie di oggi, si conclude qui questa nuova puntata di Extra Large, questa settimana di Extra Large, in regia Maria Piera Ceci, in regia Peter Bescapè, scusate, in redazione Maria Piera Ceci, grazie per la collaborazione, ancora una buona giornata da Anna Migliorati, ci risentiamo lunedì. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.